9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 15 marzo. Il tema di oggi è dedicato alla comprensione innanzitutto di che cosa sta ancora avvenendo dopo il sisma devastante abbattutosi venerdì scorso sulle coste nord-orientali del Giappone, alla centrale nucleare di Fukushima in particolare, ponendosi il problema di capirlo, di capire che conseguenze avrà sul bilancio energetico di quel paese che, come sapete, ha 54 centrali nucleari in funzione, ha puntato tantissimo sul nucleare insieme agli Stati Uniti, alla Francia, è il paese che ha puntato sul nucleare per la soddisfazione del proprio fabbisogno elettrico di più al mondo. E qual è la reazione che c'è in tutto il mondo in corso? Sapete, vedete oggi sui giornali, pausa di riflessione in Germania, negli Stati Uniti Obama dice le nostre, sono sicuro andiamo avanti, in Francia vanno avanti senza nessuna esitazione, però inevitabilmente la comprensione di quello che sta avvenendo, la dinamica dell'incidente e le sue conseguenze, stabilire con precisione che conseguenze avrà, che tipo di rilascio di isotopi avrà nell'atmosfera e con che rischio per le popolazioni, avrà inevitabilmente, come sappiamo alla luce di Chernobyl, un grandissimo impatto su nucleare, nel bilancio energetico delle diverse nazioni. Io, e questa è l'ultima parte della mia brevissima introduzione, al tema di oggi ci arrivo dovendo una spiegazione agli ascoltatori. Ed è il motivo per il quale parlerò poco. Perché? Perché per mestiere io faccio anche il risk assessment, mestiere di economista sulle infrastrutture, e a distanza di 12-14 ore dal sisma mi sono trovato a dover scrivere, secondo me doverosamente, un articolo che è uscito sabato mattina sul Messaggero sugli elementi che avevamo per fare una valutazione del rischio, stante che il terremoto, uno dei più gravi come intensità della storia, si era abbattuto su un'area in cui c'erano molte centrali nucleari. E questo articolo è uscito sul Messaggero sabato mattina. È un articolo nel quale ho scritto, stante gli elementi che avevamo allora dell'Agenzia Internazionale, la IEA, quella delle Nazioni Unite, che si occupa della sicurezza atomica e che monitora le notizie di tutte le agenzie nazionali in materia di sicurezza atomica dei diversi programmi nucleari al mondo, stante le notizie che avevamo dalle autorità giapponesi e da quelle della IE, io ho scritto una tesi che riscriverei tale quale quel giorno, senza essere d'accordo con i miei colleghi e con tantissimi ascoltatori e lettori che sono insorti dicendo bisogna scrivere solo a cose fatte. Il risk assessment era che di fronte a una sisma, uno tsunami di quella intensità, gli elementi che noi avevamo ci dicevano che gli impianti avevano retto, non avevano ceduto, malgrado si trattasse di impianti concepiti 50 anni fa e realizzati entrati in funzione più di 30 anni fa, quindi con un sistema di sicurezza non allo stato di quelli che si realizzerebbero oggi, visto che nel nostro paese il dibattito è se ritornare a una componente nucleare. Il governo ha deciso di sì, ma molti continuano a pensare di no. E io ho scritto quell'articolo e quell'articolo mi è valso a ieri sera sul mio Chicago blog più o meno 750 a favore, 150 che hanno scritto, di cui il 90% hanno scritto contro, ma mi è valso soprattutto dopo la pubblicazione sul Messaggero, fine della mia introduzione, circa 4800 messaggi, di cui a malapena il 10% favorevoli, il 90% durissimamente contrari, e sono diventati ovviamente più contrari man mano che le notizie nei giorni cambiavano. E per il 90% su 4.008 io dovrei addirittura smettere di fare il giornalista, perché il più delle opinioni condivise da autorevoli colleghi come Marco Travaglio, anche uno degli ospiti di oggi, ha detto che io dovrei smettere di parlare di cose che ignoro. Benissimo, io non penso che fare le valutazioni di rischio sulle fonti energetiche, che fa parte anche del mio mestiere economista, sia una cosa che devo smettere di fare se non ho la laurea in ingegneria nucleare. Detto questo, il mio articolo nasceva dal timore che l'emotività prendesse rapidamente piede, perché questo si capiva nell'informazione internazionale fin dalle prime ore dopo il sisma. Non cambio idea, mi sembra che questo continui a essere il metro con cui stiamo giudicando un incidente che allo stato è ancora di livello 5 sui 7 della scala internazionale. È una cosa grave, non ha comportato a questo momento il cedimento della struttura di contenimento del nocciolo di alcun reattore, a questo momento. E quindi non ha comportato l'effetto più grave, che invece ha travolto migliaia e migliaia di impianti di produzione di energia per un sisma di quella portata, e quindi io vi dirò dico la verità, do atto del fatto che ancora una volta mi sono esposto e il più delle reazioni è stato travolgentemente critico. Fine di quello che ho da dire. Io mi auguro davvero che a questo paese sia risparmiato ciò che ci ha portato nel 1987, unico paese al mondo a smantellare i progetti che avevamo in corso. Detto tutto questo, ovviamente ognuno ha le sue legittime opinioni, io mi taccio, ma non per sempre, perché non sono convinto che la reazione di chi ha tirato fuori il colore delle mie cravatte ancora una volta dicendomi che sono un somaro pagato da chissà chi sia il metro della ragionevolezza e della freddezza che considerazioni sull'energia, come la si produce, i costi benefici di lungo periodo, compreso la contabilità delle vittime, che è una questione amara, ma non capisco come mai a nessuno interessino i quasi 30.000 morti che ogni anno può costare, in alcuni anni può costare anche questo come livello di vittime, l'estrazione e la trasformazione del solo carbone. Mi si dirà sì, però quei morti finiscono con loro nel dramma e non sono il rilascio di radioisotopi che declinano poi per migliaia di anni, è verissimo, però stiamo parlando di vittime, la cui comparazione deve indurre freddamente a un bilancio. Fine della mia introduzione, a parlare saranno esperti veri, non il somaro che sono io. Ve li presento, abbiamo con noi Marco Ricotti, che insegna impianti nucleari al Politecnico e membro dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Buongiorno professor Ricotti. Buongiorno Giannino, buongiorno agli ascoltatori. Il professor Luigi De Paoli, che insegna economia applicata alla Bocconi, è direttore del Master in Economia e Management Ambientale, direttore della rivista Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente. Buongiorno professor De Paoli. Buongiorno a voi. Mario Tozzi, che è geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, editorialista della Stampa. Buongiorno Tozzi. Buongiorno, le sue cravatte mi piacciono a me, io non le ho nominate. Sì, va bene. Ha detto comunque che è meglio che smetta, ma non voglio fare polemica, perché per me, io rispetto il punto di vista di tutti, comunque si vesta, lei è un geologo, non credo che sia nemmeno lei un ingegnere nucleare, però lei ha competenza per parlare. A me fanno stare sempre zitti, perché di solito sostengono che o invento o sono pagato. Io, può essere che inventi per ignoranza, vediamo, ma pagato da nessuno di coloro che hanno interessi nella materia. Carlo Stagnaro, inoltre, direttore ricerca e studi del Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Allora, professor Ricotti, sia per ciò che insegna sia per la sua qualifica di membro dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, a questo momento, da quello che lei ha potuto sapere con l'evoluzione delle notizie che abbiamo monitorate a livello internazionale e quelle delle fonti giapponesi, il livello dell'incidente e ciò che sta avvenendo, le diverse esplosioni, che da quello che capisco io sono esplosioni chimiche da rilascio di idrogeno per tenere sotto controllo la pressione all'interno della cosa, però molti le scambiano invece per esplosioni prossime sempre più a esplosioni nucleari tipo Chernobyl. Come stanno le cose da quello che ha capito, professor Ricotti? Dunque, innanzitutto anche le esplosioni occorse a Chernobyl erano esplosioni, diciamo, chimiche, perché l'idrogeno prodotto dalla reazione dell'acqua con l'acciaio, anche in quel caso delle guaine di combustibile, in più l'esplosione, la forte reazione prodotta dall'interazione tra l'acqua e la grafite e il successivo incendio sono chimicamente e fisicamente delle azioni di tipo appunto chimico, quindi nel caso corretto lì ci fu però il cedimento del nocciolo di tenuta, questo volevo dire. Sì, comunque la situazione a Fukushima è certamente molto seria e grave. Dalle notizie avute ieri, io oggi mi sono collegato e ho cercato di capire, evolvendo la situazione, dalle notizie che abbiamo, da ciò che possiamo comprendere, è che ieri all'unità 2 di Fukushima si butta una rottura dell'anello di acciaio che sta sotto il contenitore di sicurezza principale, ma fa parte del contenitore di sicurezza principale, e quindi si è avuta una rottura della seconda barriera di sicurezza. La prima è il contenitore a pressione, cioè diciamo la pentola a pressione in acciaio che contiene gli elementi di combustibile, e questo ovviamente indica una situazione molto seria. Non abbiamo ancora, almeno io non ho ancora, la rilevazione delle dosi di radiazione che si sono liberate all'esterno a seguito di questo evento. C'è una situazione, credo dal punto di vista radiologico, ancora più seria invece nell'unità 4, in una delle tre unità che erano spente per manutenzione programmata e immagino anche per il cambio di combustibile, perché si è avuto un incendio, anche qui si ipotizza di idrogeno, nell'edificio dell'unità 4, in corrispondenza della piscina di stoccaggio e di raffreddamento del combustibile esaurito. Questa piscina è all'esterno del contenitore di sicurezza, tanto per intenderci quello che non c'era a Chernobyl. È vero che è dentro l'edificio tecnico principale, quello che è a tenuta, ma appunto è un edificio che è a tenuta idraulica, non a tenuta a pressione. E quindi la radioattività che si è liberata a questo punto a seguito, si stima, di un danneggiamento degli elementi di combustibile che erano collocati in questa piscina, dicevo la stima della dose di radiazione all'esterno è importante, si parla di 400 millisievert ora. Ora, senza entrare nel dettaglio, ma 500 millisievert è una dose significativa, per cui si iniziano già ad avere dei danni stabili. 4000 millisievert significa 50% della probabilità di morte, 6000 millisievert è morte praticamente. Certo, certa. No, però quindi, insomma, parliamoci chiaro per i non tecnici, 400 millisievert sono una signora dose, ecco, cioè sono una dose che comporta problemi per le popolazioni. Iniziano a esserci dei danni reversibili. Esatto, sì. Iniziano a essere dei danni reversibili, ma assolutamente identificabili. Ecco, sotto i 200 millisievert una persona prende radiazione, ma non è, come dire, immediatamente identificabile, cioè, ci sono danni ma reversibili. Le posso fare un'altra domanda, sempre sforzandoci di spiegare a chi non ha ben presente le particolarità tecniche di un impianto di quel tipo, ma dosi come quelle dei 400 millisievert che sono l'ultima notizia in aggiornamento che ci viene dalle fonti giapponesi, fanno pensare, alla luce di quello che sappiamo delle dinamiche precedenti e anche di Chernobyl, che queste dosi sono compatibili con un processo ancora sotto controllo di tentativi di tenere sotto controllo la pressione, ma con un involucro di tenuta del nocciolo che regge, oppure ci devono far pensare che ci sono oramai cedimenti in corso del nocciolo di tenuta delle centrali, quindi con rilascio di elementi radioattivi e isotopi nell'aria così pesante da farci capire che stiamo andando di male in peggio, cioè in altre parole che il processo non è più sotto controllo, secondo lei, professore Cotti? Allora, il processo non è sotto controllo, nel senso che non lo posso gestire, ecco, nel termine tecnico del significato della parola. La situazione, ripeto, più impegnativa, più seria adesso, paradossalmente, sull'unità 4 per quanto riguarda l'effetto radiologico esterno. È vero che è su una danneggiamento un combustibile che è immerso in piscina, quindi immagino che riescano in qualche modo a riempire questa piscina e a raffreddare questo combustibile che è posto all'esterno del recipiente in pressione, della pentola a pressione, ma anche all'esterno del contenitore di sicurezza. Quindi questo credo che sia una situazione decisamente più gestibile rispetto a ciò che sta accadendo all'unità 2. Lì invece il nocciolo è verosimilmente ancora scoperto, stanno continuando a iniettare acqua, ma non sono certi di quale sia la reale situazione all'interno. Abbiamo un danneggiamento, quindi una rottura del famoso toro in acciaio nella parte inferiore. Lì prima di poter dire qualcosa dovremmo avere delle informazioni circa la dose di radiazione all'esterno di quell'impianto, quindi prima di poter dare una valutazione bisogna avere una lettura dei monitori d'area che ci sono all'esterno. Allora Tozzi, secondo lei, per come stanno andando le cose, quali sono le prime conseguenze, non solo sul Giappone, intanto sulle popolazioni, ma che elementi intanto trarne per il dibattito nel resto del mondo? E naturalmente cominciamo anche un pochino a parlare di casa nostra. Prego Tozzi. Sì, un secondo solo per dire che effettivamente sono stato io a dire che Oscar Giannino avrebbe fatto meglio in quell'occasione a tacersi, ma certo non ho commentato né cravatte né altre cose, perché metto fuori discussione la sua competenza in economia e anche la sua capacità giornalistica. Detto questo, e invitandola alla mia trasmissione radiofonica su Radio 2, vorrei dire che l'incidente è molto più grave di quello che noi pensavamo all'inizio, questo lo possiamo senz'altro dire, ed è di una gravità tale che l'autorità francese per l'energia, per la sicurezza sull'energia atomica ci dice, loro ce lo dicono, che sono quelli che fanno più centrali al mondo sostanzialmente, che si tratta di un livello di incidente 5 o 6, mentre fino a ieri si era dato per sicuro un livello 4, la differenza lì, lo sapete, è inutile che la starò a ricordare, ma insomma, ma in ordine di gravità crescente, 7 è quello di Chernobyl, 4 è quello che si era dato all'inizio, 5 o 6 potrebbe essere prima dell'Island, sì. Poi vediamo. Però quello che è vero è che io ho davanti un commento riportato da Daily Yomiuri, che è uno di questi siti che riporta le affermazioni di TEPCO, cioè dell'agenzia che fa l'energia elettrica in Giappone attraverso il nucleare, ci dice che, leggo testuale, fuel roads, cioè le barre di combustibili, fully exposed, cioè completamente esposte. Questo, Ricotti, ne abbiamo parlato anche ieri sera, sa benissimo che cosa significa. Cioè quando c'hai un'esposizione di quel tipo, il processo di fusione, quello più temuto di tutti, la fusione del nocciolo, è una cosa che va paventata, perché effettivamente vuol dire che, come diceva Ricotti del resto, è fuori controllo. Allora, di fronte a questo, questa è la mia considerazione, possibile che a nessuno gli venga in mente in Italia, di coloro che sostengono un programma nucleare futuro, non dico di fermarlo, questo, ma di fermarsi a riflettere, quello magari sì, facendo, non so, si possono organizzare conferenze di studio, approfondimento, insomma quello che volete. Se la Svizzera decide di non fare più centrali, la Germania ne chiude due e decide di non prolungare la vita di quelle più vecchie, l'Austria non ce l'ha, il Portogallo non ce l'ha, la Grecia non ce l'ha, questa, vabbè, l'avevamo già visto, e altri si mettono a dire che, insomma, bisognerà pensarci un attimo. Se gli stessi francesi ci dicono che addirittura l'EPR c'ha un sistema di sicurezza, cioè quelle che vorremmo costruire noi, hanno sistemi di sicurezza che non sono ottimamente congegnati, proprio lei Giannino che studia il rischio, certamente nessuno potrà pretendere che il rischio sia zero, ma gli impianti industriali nucleari sono diversi dagli altri, non è che sono come gli altri, anche perché appunto se io dico qui agli ascoltatori della radio che avete paura della centrale termoelettrica che è saltata in aria in Giappone, perché ce n'è stata una che è proprio si è incendiata come lei ricordava prima, nessuno mi dirà che ne ha paura, ma se gli dico che c'è una piccola fuga pure di altra natura su quella centrale invece atomica, allora la paura diventa collettiva. Perché? Perché il nucleare è qualche cosa su cui c'è sempre un alone, come posso dire, di inespresso. Anche in questo caso la TEPCO prima dice una cosa, poi ne dice un'altra. In tutti i casi di incidenti nucleari della storia c'è sempre un'altra verità all'inizio, c'è sempre una minimizzazione, sempre, se costantemente, da Three Mile Island fino a Chernobyl, si è sempre raccontata un'altra storia. Se è così sicuro, perché ci raccontano sempre un'altra questione? E vi sembra poco evacuare 20 km di raggio, cioè 1200 km quadrati e 200.000 persone, e forse ancora di più? Cioè non sono conseguenze che dovremmo fra l'altro mettere in un conto economico, lo dico a lei Giannino, quanto costa davvero il kilowattora nucleare? Cioè in costi esterni, voglio dire, no? Quelli che tu non paghi quando paghi la bolletta, ma che la collettività paga quando c'è un incidente o non riesci a inertizzare le scorie. Io ho davanti a me il sito del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, e non è affatto vero in questo sito che ciascuno può vedere, quello ufficiale, che il kilowattora nucleare è il più economico di tutti. Non è proprio vero, e questi costi lo fanno salire, dunque non sarà il caso di fermarsi a riflettere, questa è la mia questione. Tozzi, io mi limito a dire, perché oggi non ho intenzione di fare parte in commedia, che come sappiamo, tra tutti coloro che da anni animiamo, numeri alla mano e studiando, il dibattito su questa cosa, alla domanda da lei correttamente posta, secondo me, come si determina il costo del collettore nucleare, le risposte sono due. E perché? La prima risposta è il costo col che si misura con diciamo, la valutazione del combustibile e il costo di gestione dell'impianto. Lì il nucleare basta praticamente tutti. Dopodiché, naturalmente, poiché il più del costo, ma non il più, proprio il più in termini di proporzioni elevatissime, è la sicurezza e il processamento poi delle scorie, volumi bassissimi, ma comunque attivi per un periodo di tempo lunghissimo, su quello c'è il dibattito, perché naturalmente, poiché si chiede al nucleare, per sua stessa missione, di tentare di dare una risposta all'alone di paura che non grava su nessun tipo di produzione industriale, energetica, eccetera, ecco che a quel punto i costi di sicurezza, che devono aumentare sempre di più, come è ovvio, perché stiamo parlando comunque di radionuclidi, radioisotopi, di elementi instabili che decadono con impatti terribili sulla salute delle popolazioni e sull'ambiente, però su quello, sulla sicurezza e sul riprocessamento, inutile, perché tanto non ci si intende. E chi è contrario, perché è contrario a tecnologie che sono complesse, che quindi significa che per la progettazione, individuazione degli impianti e loro gestione individuano gerarchie complesse per gestire la complessità, e di questo diffidano perché pensano che sia una cosa in cui si raggirano le popolazioni, si raggira la democrazia e l'informazione, su quello non ci si metterà, credo, dopo tanti decenni di dibattiti, possiamo serenamente dirlo. Ma è d'accordo, senza per questo pensare che si è solo sommari e malafede o pagati dall'Enel o da chi volete voi, perché a me non mi paga nessuno. Ultimo mio intervento, perché veramente non voglio polemizzare. E ora pubblicità e finiamo il primo giro poi con gli altri due ospiti. Eccoci tornati in studio con i nostri ospiti per tentare di capire che cosa sta avvenendo a Fukushima, che conseguenze avrà per il Giappone, ma per il mix energetico in tutti i paesi avanzati, in tutto il mondo. Professor De Paoli, da questo punto di vista, innanzitutto la domanda che faccio anche a lei, che cosa crede di star capendo dalle notizie che abbiamo dell'incidente in corso in Giappone e che conseguenze immagina? Ma capisco che la situazione peggiora di giorno in giorno, per non dire di ora in ora. Anche io speravo e pensavo che dopo le prime notizie si riuscisse a raffreddare i tre reattori che erano in funzione al momento del terremoto e poi dello tsunami, però uno dopo l'altro vedo che abbiamo avuto tre esplosioni e anche il quarto che era spento ha accettato il fuoco e l'incendio, e quindi problema per la piscina di stoccaggio del combustibile esaurito, diciamo altamente preoccupante anche questo, perché un reattore spento non riesco a capire come mai scoppi l'incendio e appunto ci sia dispersione di radioattività anche da lì. Poi la notizia di stamattina dei 400 millisievert mi allerta in una maniera terribile, perché è vero le notizie che ha dato prima il professor Ricotti, ma quelli sono 400 millisievert ora, il che vuol dire che come fa il personale adesso a intervenire, esatto, in quella zona, perché 400 millisievert ora, uno in un'ora prende questi 400, sì, millisievert, quanto ci può rimanere una persona? No, quella è, infatti, quando ho visto il dato, quello è un dato che praticamente rende impossibile interventi umani di medio-lungo periodo, cioè lì significa che siamo al cedimento della struttura intorno al nocciolo, secondo me, però vediamo, può essere pure che ci siano degli errori, però quel dato è un dato molto allarmante. È allarmantissimo, perché a Chernobyl, dove c'erano dose naturalmente anche superiore, ma subito sono intervenuti per coprire il reattore, difatti i morti sono stati tra gli elicotteristi, alcuni dei morti, insomma, tra le persone che erano intervenute immediatamente, ma seppellendo, diciamo così, il reattore, poi hanno stoppato le emissioni di radioattività. Qui si sta cercando di controllare il tutto, giustamente, ma se arriviamo a questi livelli di radioattività, veramente mi chiedo, perché oltretutto sul sito c'è anche uno stoccaggio di rifiuti radioattivi solidi, per esempio, cioè è veramente una situazione che di ora in ora diventa sempre più preoccupante. Ora, non essendo lì sul sito, non avendo tutte le informazioni, per carità, è meglio astenersi da qualsiasi commento e magari pensare che questi 400 millisievert sono una rilevazione in un punto particolare dove si è depositato diciamo parte del materiale radioattivo già uscito, diciamo, perché sicuramente una parte di fusione del nocciolo c'è stata, su questo non ci sono, mi pare, più dubbi, e quindi che sia una notizia allarmante o addirittura che sia un errore questi 400, io spero millisievert che siano microsievert, cioè mille volte più basse, e sarebbero già pur sempre, diciamo, una radioattività non trascurabile. Ma se è così, veramente mi chiedo, e comunque anche il fatto che i giapponesi abbiano chiesto l'intervento dell'IAEA e l'intervento degli americani, che avendo reattori BWR ed essendo oltretutto quelli che hanno concepito la generale elettrica, questo tipo di reattori sono quelli che sono più in grado di dare del supporto, delle informazioni, però la situazione sta diventando, mi pare, sempre più preoccupante. Dopodiché tutti quanti ci auguriamo che dopo la grande preoccupazione invece si riprenda il controllo della situazione, soprattutto appunto per il rilascio all'esterno della radioattività, e che poi si possa ragionare a mente più fredda su quello che è accaduto e, diciamo, per quello che ho capito io, il grosso problema è incredibile, è derivato dal fatto che i diesel di emergenza, quando è stato perso l'alimentazione elettrica della centrale, siano stati inondati dallo tsunami e quindi sono stati messi fuori servizio, il che è assolutamente, diciamo, incomprensibile, perché uno dice tutta l'attenzione alla sicurezza dei reattori è che non perdano il raffreddamento del nocciolo, se no abbiamo la fusione e poi abbiamo il rilascio della radioattività con quello che sappiamo, però perché non ci sia la perdita, diciamo così, del refrigerante, bisogna che le pompe funzionino e facciano circolare questo benedetto. Questo per esempio è uno dei motivi per i quali in un impianto come quello francese in costruzione in Finlandia non si dipende più dai generatori diesel per assicurare in condizioni di emergenza la refrigerazione, si adottano procedure a caduta fisica che quindi non verrebbero interrotte, naturalmente secondo chi progetta con criteri standard di sicurezza più elevati, con il tempo e con i decenni lo abbiamo fatto, che non verrebbero interrotte dal venir meno della corrente elettrica per eventi come questi, o dal venir meno della tenuta dei motori diesel, come è avvenuto lì per le oscillazioni dovute al terremoto. L'ultima comunicazione ufficiale del governo giapponese attualmente ripete che le iniezioni di acqua nei reattori 1 e 2 della centrale di Fukushima sono a livelli stabili, ma il portavoce del governo nel briefing compiuto un'oretta fa informa che però quanto al reattore 4, quello spento ma che ha registrato nelle ultime ore un nuovo incendio, il livello dell'acqua non è confermato. Quindi il livello dell'acqua significa appunto la parte scoperta delle barre che può portare alla fusione di cui parlavano Tozzi e De Paoli adesso. Stagnaro, la sua prima impressione delle conseguenze che vi saranno nel mondo di fronte al fatto che Obama dice no, noi andiamo avanti, la Francia dice andiamo avanti, la Germania pausa di riflessione, Svizzera pausa di riflessione, che cosa immaginare alla luce di quello che sappiamo e abbiamo visto quando ci fu il referendum anche da noi? Una volta, ripeto, che ci prendiamo tutta la cautela nell'apprezzare fino in fondo la dinamica e le conseguenze che ci saranno all'incidente in corso in Giappone, ma che conseguenze immaginare secondo lei? Ma bisogna distinguere le conseguenze immediate dalle conseguenze di medio-lungo termine. Le conseguenze immediate rispondono più, come dire, a impulsi politici che riguardano, come dire, le esigenze di chi sta al governo di rassicurare le rispettive popolazioni, di far vedere che c'è, che non una valutazione compiuta di quello che è successo, perché una valutazione compiuta ancora non ce l'abbiamo. Quindi io credo che sia necessario aspettare almeno qualche giorno per vedere cosa succede, come va a finire questa storia e per capire dove è stato l'errore, dove è stato il fallimento nei sistemi di sicurezza e se i sistemi di sicurezza potevano essere costruiti in modo diverso e resistere allo shock tremendo a cui sono stati sottoposti. Peraltro, apro una parentesi, la cattiva notizia è evidentemente che le centrali non hanno, i sistemi di sicurezza non hanno resistito allo tsunami che ha spazzato via i generatori diesel per il raffreddamento con tutto quello che sappiamo ne è seguito. La buona notizia però, e questo è l'unico aspetto, se posso dire una parola non dico rassicurante ma quasi, la buona notizia è che il terremoto non ha prodotto danni significativi per quello che si è capito agli impianti, e questo è importante perché gli impianti erano costruiti per resistere a terremoti molto meno forti, erano testati, erano garantiti su scosse molto meno significative di quella che c'è stata, e questo, come dire, è un aspetto da tenere nel conto. Cosa cosa ne seguirà. Io credo che l'invito che faceva Tozzi sia in qualche maniera quello che abbiamo pensato tutti, a prescindere dalla nostra opinione sul nucleare, e sia quello che in qualche maniera si è già messo in moto, cioè tutti quanti ci stiamo, tutti coloro che sono nella posizione di poter decidere sul futuro del nucleare si stanno chiedendo se l'incidente giapponese rappresenta, come dire, un suggerimento a, non dico sospendere, ma perlomeno rallentare l'attenzione nei confronti di questa tecnologia, avendo la consapevolezza che il Giappone non è Chernobyl, non solo dal punto di vista, come dire, del danno che realisticamente può venire fuori, ma anche e soprattutto, e questo è invece l'aspetto preoccupante, perché mentre a Chernobyl, il fallimento di Chernobyl fu la conseguenza di procedure inadeguate, tecnici impreparati e un sistema, come dire, politico e sociale circostante che, come dire, rendeva più probabile rischi di quel genere, e il Giappone no, il Giappone ha tutt'altra cultura della sicurezza, tutt'altra cultura delle procedure e così via. E quindi io non mi aspetto che il problema emerga da, come dire, buchi ovvi nei sistemi di sicurezza come fu a Chernobyl. In questo caso siamo di fronte a buchi non ovvi messi assieme a un evento di portata assolutamente eccezionale e comunque però possibile. E quindi la domanda che tutti ci dobbiamo in qualche maniera porre è: quanto deve essere piccolo un rischio, cioè la coppiata di un terremoto di 9 gradi Richter più uno tsunami, per rendere accettabile il rischio di incidenti nucleari, la cui portata dobbiamo ancora, come dire, misurare, quantificare, comprendere e valutare. Poniamola giustamente, secondo me è una domanda, può essere che la risposta sia zero, proprio perché il nucleare rilascia, però iniziamo con una risposta poi di Mario Tozzi dopo l'informazione sulla circolazione stradale, dopo il minuto torniamo con Mario Tozzi esattamente dalla domanda di Stagnaro. Allora, qual è la soglia, diceva Stagnaro, oltre la quale si può pensare anche che il costo o beneficio del nucleare possa valere la pena? Per i non addetti, per capirci, qual è la particolarità del nucleare, vista il rischio che è connesso al combustibile trattato e la sua radioattività? E il fatto che con il nucleare si realizzano impianti capaci di generazione ad alta intensità e ad alta continuità. Per capirci, l'alta intensità significa che con un impianto nucleare, diciamo, non troppo vecchio, di 1600 megawatt, è una roba di 450, 500 metri per 500. Ecco, per avere stessa potenza, l'intensità e continuità, si fa per dire, voglio dire, come scala di grandezza, l'insegnamento che ci vuole per il fotovoltaico, sono impianti a terra con lo stato attuale, buon livello di pannelli innestati, di buona tecnologia, di 5 km per 5 km. Se pensiamo alle pale fotovoltaiche attuali, cioè quelle grandi, non quelle piccoline dei microimpianti, significa fare 25 per 30 km, per dire, ovviamente. Il che non significa comparare solo da questo punto di vista intensità e continuità, perché questo è sbagliato, tant'è che io ho sempre detto che nella mia visione sono assolutamente complementari, però il nucleare ha questa particolarità, ma naturalmente in termini di sicurezza ha dei costi spaventosamente più elevati, che dal mio punto di vista lo rendono comunque, per continuità e intensità e per riequilibrio del mix energetico, affordable, cioè sostenibile e gestibile in termini di vittime comparate storiche rispetto a tutte le altre fonti di produzione di energia. Ci metto anche le vittime. La domanda di Stagnaro, però, la questione importante è vedere a chi, dal suo punto di vista, invece è fondamentalmente convinto che scientificamente, cioè in termini comparati, viste tutte le voci di costo e visto il rischio che comporta anche purtroppo tragicamente le vite umane, chiedo allora a Mario Tozzi come si risponde dal suo punto di vista alla domanda di Stagnaro. Intanto voglio dire che, visto rapidamente i dati, eravamo già a 882 microsievert prima, dunque si tratterà effettivamente di 1000 sievert, perché quella soglia sarebbe stata superata, quello che si diceva sì. A proposito della lezione. Secondo me la risposta è che quel livello di sicurezza che non è possibile garantire, come dimostra questo incidente, perché poi c'è l'aspetto geologico dello tsunami, non abbiamo tempo di parlarne, non fa valere... Però in effetti è chiaro quello, il sottinteso è chiaro, però esplicitiamolo anche, effettivamente non è possibile dire alla Terra stai buona, ecco. No, non solo, poi magari ci saranno dei posti in cui la cosa è più possibile, altri no, voglio dire, una centrale nucleare nel centro della Siberia difficilmente ha questi rischi qua. Invece naturalmente in Italia e in Giappone ce ne ha, perché appunto sono territori ballerini, ma quello di natura, insomma. No, io penso che invece quel costo, diciamo, esterno che hanno tutti i combustibili geologici, ne parlava prima lei Giannino, ma lo possiamo ribadire, quel costo esterno che tu non paghi alla pompa, no? Non è che la pompa di benzina, adesso dico, parlo per il petrolio, tu paghi quello che succede in termini di morti per cancro e inquinamento, non, certo, lo paghi, certo, però poi la collettività lo paga. Stessa cosa si può dire per il nucleare, a prescindere dall'incidente, perché per esempio l'energizzazione, anzi se dovessi dirla tutta, è proprio con Giannino qui, il costo del kilowattora nucleare, abbiate pazienza, sarà definito quando il ciclo di combustibile è chiuso. E quando si chiude il ciclo di combustibile? Quando il primo chilogrammo di uranio della prima... Cioè lei dice tra decine di migliaia di anni. È inesplorato, cioè fra 30.000 anni. No, ma è chiaro che qui adesso stiamo esagerando. Però io credo che la logica delle rinnovabili possa essere significativa solo se, perché diamo pure qualche risposta, accoppiata a un risparmio e una maggiore efficienza. Perché questo ci vuole comunque, ed è una fonte che hanno tutti i paesi. Se tu sei maggiormente efficiente nella produzione e nell'uso finale dell'energia, faccio un esempio, il televisore di oggi impegna molti meno watt di quanti lo impegnava 50 anni fa, evidentemente. Se tu sei più efficiente in quella produzione e risparmi sugli sprechi, forse ti puoi garantire un periodo in cui non è necessario costruire nuove centrali. È vero che il nucleare ha questa densità energetica così clamorosamente evidente, lampante, e che il solare per esempio non ce l'ha affatto, no? Perché è molto più... Però forse è la logica di accentramento che non va più bene, cioè le energie tradizionali, compreso il nucleare, vanno bene per produrre acciaio e autovetture, voglio dire, ma per il resto un terzo dei consumi sulla Terra sono trasporti, un altro terzo sono quelli domestici, lì possiamo inserire il cuneo del decentramento energetico attraverso i rinnovabili. Finisco dicendo che la Germania, vedo il piano energetico davanti alla Germania, dice che installerà un cumulativo solare fotovoltaico, i tecnici mi capiscono, di 52.000 megawatt no? nel 2020. Come no? Sono tanti, è sì, soltanto. Questa. Lei ha ragione, però il problema è che gli energivori continueranno, non è che noi entriamo solo nell'economia leggera. Adesso, a parte il fatto la Cina quante decine di centrali realizzerà, però processi energivori che hanno bisogno di continuità e intensità, la mia opinione è che noi siamo per esempio il secondo paese manifatturiero d'Europa, la quinta potenza industriale del mondo, l'Italia, e abbiamo l'area, il nord-est del nostro paese, il nord-ovest, è l'area che ha una intensità di produzione industriale pro capite, quindi ha bisogno, è energivora proprio di questo tipo di energia per difendere il proprio status economico ed è tutto ciò che fa la crescita italiana, ecco, ha un'intensità di produzione industriale pro capite maggiore della media nazionale tedesca. E quindi che noi come facciamo a risolverci solo con risparmio energetico che ci vuole, con le rinnovabili che ci vogliono, eccetera eccetera, e questo è un po' la cosa. Certo, abbiamo fatto una scelta di mix dopo il referendum che sappiamo quello che ci costa, ecco, non so se ci metta al riparo di numero di vittime, non credo in termini di esternalità negative, però detto questo, la domanda finale che faccio al professor De Paoli, cosa ha insegnato in termini italiani il dibattito post referendum rispetto al tentativo di un mix diverso, al netto diciamo delle conseguenze che stimeremo nel tempo di quello che sta avvenendo in Giappone? Secondo lei possiamo considerarci mediamente più ragionevoli e in grado di dei politici di sentire più i tecnici, i media di sentire più i tecnici, secondo lei? Ma guardi, naturalmente l'abbandono del nucleare affrettato dopo l'incidente di Chernobyl l'ha fatto solo il nostro paese. Dire però che il nucleare sia senz'altro la risposta alla fornitura di energia a basso prezzo, anche questo mi sembra non del tutto corretto. Il nucleare può costare poco, ma può costare anche molto. Il nucleare dipende da come lo si fa, da come lo si riesce a fare, e solo dei sistemi molto organizzati e molto seri riescono a fare il nucleare a basso costo. Oltretutto il primo nucleare, diciamo l'ondata anni 70 e 80, è stato fatto in un periodo di fortissima inflazione, per cui chi investe in periodo di forte inflazione poi si trova il vantaggio appunto che l'inflazione ha cancellato parte dei costi reali. L'Italia in passato non ha brillato per capacità di realizzare appunto le opere a basso costo, questo non vale solo nel nucleare, con questo non è che bisogna essere pessimisti e dire che allora non potremmo mai farlo anche in futuro, però si richiedono tante condizioni, in particolare un sistema serio. Il nucleare non è un fatto solo dell'industria, di chi costruisce gli impianti e di chi li gestisce, soprattutto di questi, ma è anche una tecnologia che richiede una società, una pubblica certo. amministrazione, una classe politica complessivamente capace di dare il suo contributo. Professor De Paolo, io su questo la devo interrompere, perché la stragrande maggioranza di coloro che sono critici, e tra l'altro che mi continua a mandare messaggi dicendo che devo tacere e sparire, va bene, lasciamolo decidere all'editore e al direttore della rete, però detto questo sono convinti che in Italia la corruzione, la cricca eccetera eccetera ci impedisce di farlo. Anche su questo la mia opinione, nel rispetto e per la serietà di questa obiezione che anche il professor De Paoli ha avanzato, dico che se noi ci convinciamo davvero che nel nostro paese siamo impossibilitati a realizzare un qualunque impianto senza rubare sul cemento, beh, tanto vale che ci rassegniamo al fatto che l'Italia va a fondo, insomma, ecco. Cioè, la reazione a tragedie come il Titanic, le migliaia di morti del Titanic sono due. Si poteva pensare che non bisognava più battere le rotte del Nord Atlantico, oppure si poteva pensare che bisognava investire su radar migliori e ufficiali capaci di leggerli meglio. Ecco, io continuo ad avere questa fiducia anche nei confronti del nucleare. Dopodiché, se penserete che in Italia fate il referendum e mi cacciate, parlerò da solo, però i miei numeri li saprò leggere e non mi farò dar lezioni da travaglio sui numeri. Sui verbali dei PM, sì, ma sui numeri la lezione a lui, forse solo a lui, ma a lui, certo, la do io. Grazie, a domani.